Guardami quando mi parli, guardami quando mi parli, guardami quando mi parli, guarda se è vero, guardami quando mi parli, guarda se te smettila di parlare guardando il muro. Se qualcosa mi devi dire, dimmelo tu. Guardala in faccia e andare, e quando è dura, sarà sfortuna. Sfortuna. Guardala in faccia e andare, è più sicura. Guarda le faccia la realtà, è meno duro. Se c'è qualcosa che non ti va, dillo alla luna. Può darsi che porti fortuna, dillo alla luna.